Entro in albergo insieme a due ragazzi. Vicino al bancone della reception ci sono un hostess e uno steward. Mi accorgo che lo steward sta facendo una scansione dalla testa ai piedi dei due ragazzi a fianco a me. Uno è un ragazzino di neanche 20 anni con la testa tutta piena di dread. Avete presente quelle trecce fatte da capelli tutti intrecciati tra di loro, con tanti nodi. L'altro è più grande, sarà sui 30 anni, ha in testa un cappello con la S da Superman, tatuaggi che gli escono da tutte le parti, dal collo, dalle braccia. Un gilet bianco con maglietta, jeans chiari rigorosamente strappati. Insomma, entrambi hanno un tipico abbigliamento da rapper. Che cosa sta pensando lo steward? Non lo so. Forse sta pensando: ma chi sono questi due sfigati? Noi esseri umani siamo programmati così. Quando vediamo una persona per la prima volta, la squadriamo subito in modo chiaro, preciso, tendiamo a farci un'idea il più possibile precisa e accurata di lei. Forse si tratta di una eredità che ci hanno lasciato i nostri padri, forse si tratta di un modo di capire se quella persona che è di fronte a noi può essere un pericolo, oppure se possiamo fidarci e possiamo abbassare la guardia. In pochissimi secondi, appena vediamo una persona, si forma dentro di noi un giudizio sommario molto chiaro. Simpatico o antipatico, serio, affidabile, preciso, impreciso, stupido, intelligente, bello, figo, strafigo, sfigato. Del resto, in fondo, è quello che ho fatto anch'io nei confronti di quello steward. E ho pensato: tu che sei tutto bello vestito, impeccabile, serio, elegante, che cosa stai pensando di questi due ragazzi? E sono convinto al 100% che non sai che quello più grande è Shock, un rapper cristiano che dopo aver avuto una vita difficilissima, terribile, adesso gira l'Italia per portare un messaggio di speranza e di fede a migliaia di persone. E l'altro, quello più giovane, è il cantante che proprio ieri sera l'ha accompagnato nel meraviglioso concerto testimonianza che hanno fatto nella nostra parrocchia. Tra parentesi, vi lascio in descrizione il link alla pagina Facebook di Shock. Andate a vedere qualche suo video su YouTube, vi lascio anche quelli. Conoscerete una persona incredibile e provate ad invitarli nella vostra comunità. Per noi ieri sera è stato un evento fantastico, meraviglioso. La prima impressione. Sono miriadi le citazioni sulla prima impressione. Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona impressione la prima volta. La prima impressione è quella che conta. La prima impressione è una sostanza indelebile. Che lo vogliamo o no, che ne siamo consapevoli o meno, la prima impressione spesso ci condiziona in modo molto pesante. Chissà quante volte è capitato anche a te di pensare: quella persona, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, qualcosa che non mi piace. Che cosa dobbiamo fare in questi casi? Qualcuno dice che dobbiamo assolutamente fidarci dell'istinto, perché se la nostra prima impressione ci ha fatto capire che c'è qualcosa che non va, dobbiamo crederci, perché riesce a capire il nostro istinto qualcosa che a volte la nostra ragione non riesce a vedere in modo chiaro ed immediato. Però c'è un però, perché anche Gesù era un grande esperto di umanità. E un giorno ha detto: prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, guarda la trave che è fissata nel tuo di occhio. Il che secondo me può significare questo, che c'è dentro di noi, nei nostri occhi o nel nostro cuore, qualcosa che ci può condizionare, qualcosa che ci impedisce di accedere alla realtà più profonda dell'altro, fermandoci invece in superficie. Una persona elegante con un certo stile come quello steward di prima può aver giudicato Shock e il suo amico Alfredo a partire dal loro aspetto esteriore. Ma in fondo che cosa ne può sapere della sua storia, della sua rabbia, di quello che si è portato dentro, di tutto quello che ha subito di terribile? E soprattutto che cosa può sapere del suo incontro con Gesù che l'ha trasformato e l'ha portato da una disperazione terrificante a una voglia di parlare di Gesù così travolgente e così forte da coinvolgere nei suoi concerti migliaia di giovani che cantano, saltano e cantano la loro fede insieme a lui? Tant'è, giudicare è per noi un istinto troppo forte, è qualcosa di naturale, di immediato, al quale non possiamo sottrarci ed effettivamente in certe situazioni può anche servirci. Che cosa dobbiamo fare allora? Appurato che è quasi impossibile non farci una prima impressione, chiediamoci almeno: ma devo proprio fidarmi al 100% di questa impressione? Non lo so, non è che pensavo con un semplice video di qualche minuto di risolvere un problema che è grande come il mondo intero. Però una cosa la so, la prima impressione può azzeccarci alla grande, ma ci sono anche casi in cui ha sbagliato alla stragrande e credo che tutti abbiamo fatto esperienza di entrambe le cose. La prima impressione può anche condizionare pesantemente la nostra comunicazione. Magari non andiamo alla ricerca del tesoro presente nel campo dell'altro perché ci sembra di dover scavare in un campo pieno di fango, salvo poi renderci conto che in realtà il fango era sopra i nostri occhiali. E allora forse potremmo regolarci così. Possiamo fidarci della prima impressione, ma non dimentichiamoci che tante volte potrebbe anche ingannarci, perché dentro di noi ci sono mille travi e mille condizionamenti che a volte ci impediscono di vederci bene. Come dire, guida pure tranquillo la tua macchina, ma ogni tanto magari un'occhiata alle gomme daccela. Fidati della tua vista, ma se ti sembra di vedere un po' appannato, magari ogni tanto dai una pulitina agli occhiali.